Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, benvenute e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, il programma animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, le scelte di vita quotidiana, l'evoluzione del pensiero, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 640 e parleremo di poesia, di scienza e razzismo, di deserti che avanzano, di allevamenti sempre più insensati. Il nostro chef Gabriele Palloni, come ogni settimana, inventerà una ricetta rigorosamente non violenta a partire da uno dei temi della puntata. La colonna sonora è curata con la consueta maestria da Gianluca Masala. Cominciamo ricordando un poeta. È morto nei giorni scorsi, all'età di 74 anni, Ivano Ferrara, un letterato singolare che aveva avuto un percorso tutto suo nel panorama poetico italiano. Lo ricordiamo in particolare perché Ferrari, mantovano, per qualche mese negli anni 70 aveva lavorato nel macello della sua città. Quella fu per lui un'esperienza sconvolgente, che poi è riuscito a tradurre in versi. Olmo Losca, in un articolo per il sito Frecce in Versi, ripreso da Veganzetta, definisce Ferrari uno dei più sensibili ed esistenzialisti poeti italiani, ricordando in particolare i 16 mesi di lavoro nel mattatoio. 16 mesi, scrive Losca, in cui vide la ferocia contro gli altri animali. Scappò letteralmente da quelle stanze inondate di sangue e preferì fare qualsiasi altro lavoro, i più precari, pur di non rientrare in quel luogo devastato dal dolore. Nel 2004, a quasi 30 anni da quei momenti, esce il capolavoro poetico, Macello. Ci mette 30 anni, dice ancora Losca, a scrivere di quell'esperienza terribile. La sua è una poetica disincantata, imbevuta di realismo, graffiante e affilata come le lame dei coltelli del macello. Macello, appunto, è una raccolta di 86 poesie, pubblicata da Einaudi, ed è un macabro racconto di viaggio, attraversato da sensi di colpa e da un'implorazione di spiritualità, in quelle sale dove, dice Ferrari, si esibisce la morte. Ferrari sosteneva che il poeta deve essere ostile con il mondo e deve verificare se all'interno della sua poesia è avvenuto il riscatto della parola. Perciò non si risparmia nulla. Vi proponiamo un estratto delle sue liriche. Lo stanzino in fondo allo spogliatoio è detto delle seghe, affisse a tre pareti foto di donne dalla vagina glabra, nell'altra il manifesto di una vacca che svela con differenti colori i suoi tagli prelibati. La mia pelle è ripulita e triste, il cuore glabro, il colorito bruastro, bene, io sono quello che stabilisce la commestibilità dei vostri miasmatici cibi. Dove nasconderà le lacrime? Se la domanda pende sul cranio sfondato di un puledro, sfumo affannando versi, subendo animali e cose. La carne morta rivive nella sua grande miseria, col vento che riporta gli odori a un ordine sparso. La carne morta è ricamata da quelle sinuose presenze che gli altri chiamano larve. È fuggito un toro nero, erra sul cavalcavia impaurendo il traffico, lo rincorriamo impugnando coltelli, bastoni elettrici e birre. Corre, si ferma, torna. Arrivano i carabinieri coi mitra. Ora è steso su un velo d'erba e sussurra qualcosa alle mosche. Quando hanno tolto la luce, la morte si è ricomposta per apparire subito dopo più nitida, più vergine. Un lungo, insopportabile ritardo, poi il rumore dei camion, le urla degli autisti, le ultime preghiere delle bestie. Ricomincia la vita, appaiono le forche, le pistole, le falze, i coltelli. Nella stanza d'attesa un vitellone chiazzato e una tornita manzarda avranno ancora la notte per annusarsi promesse da domani eterne. Dalla vasca d'acqua bollente emerge un enorme maiale, bianco come uno spettro, che oscilla impudico fino a quando, dal finestrone il sole, accende quintali di luce. A qualche centinaio di metri, passata la forma fresca del prato, e dopo case dagli occhi spenti, si trova il cimitero degli umani, dove c'è carne che non sfama. È venerdì santo, ma senza la primaverile viandanza, già prodiga di resurrezioni, il sangue ancora ghiaccia, riempendo i fiati di bagliori, e le bestie sono troppo pesanti per scendere dalla croce. Qualcuno si chiede se io ami, se durante il giorno cerco, risolvo, se almeno vedo. Quando guardano le mie labbra o le mie mani, e più maliziosamente giù, fra le cosce, sento sul corpo le domande che mi attraversano, come una forca farebbe con la paglia. Se faccio sanguinare il vento, se trasformo le foglie fredde in involtini di carne, se i cavalli bianchi del mio rinascimento sono esposti sul bancone di una macelleria, non rinuncia alla mia umanità, come voi del resto. Ivano Ferrari, Macello, Einaudi, 2004. Come ben sa chi ascolta regolarmente la nostra trasmissione, abbiamo dedicato nel tempo una forte attenzione al tema delle razze canine, cioè alla selezione genetica compiuta per ragioni estetiche e forse anche comportamentali. Non abbiamo esitato a definire questa pratica, in uso da molto tempo, come una violenza genetica. Massimo Raviola, veterinario che ha studiato nel tempo questo tema e autore del libro Che razza di bastardo, edito dall'Età dell'Acquario, ha tenuto per noi una riuscita rubrica nella quale ha condensato la sua esperienza medica, affrontando le patologie croniche che affliggono molti, se non tutti, gli animali sottoposti a selezione. Sono interventi reperibili sul nostro blog restiamoanimali.it nella rubrica Che razza di bastardo. Su questo tema c'è ora un'interessante notizia che arriva dal mondo accademico. Secondo uno studio pubblicato dalla rivista Science, realizzato dalle università di Glasgow, Princeton, Socoin e Warwick, la razza di appartenenza di un cane non è indicativa del suo comportamento. Il team di ricercatori, guidato da Kathleen Morrill, ha coinvolto nell'inchiesta più di 200 animali, valutando le risposte dei proprietari di cani raccolti in una serie di sondaggi correlati fra loro. Questi risultati, secondo gli esperti, sfidano gli attuali stereotipi sulle razze canine, secondo cui alcune, per esempio, sarebbero più aggressive di altre. Il gruppo di ricerca ha utilizzato studi di associazione sull'intero genoma per cercare variazioni genetiche comuni che potrebbero consentire di prevedere tratti comportamentali specifici in 2155 cani di razza pura e meticci. Queste informazioni sono state confrontate con le risposte a 18.385 sondaggi. Nelle 78 razze considerate sono stati identificati 11 punti associati al comportamento, anche se nessuno di questi sembrava specifico per la singola razza. Stando ai risultati dell'indagine, la tipologia di appartenenza spiega solo il 9% della variazione comportamentale dei singoli cani. Migliori predittori di comportamenti sono invece l'età e il genere dell'animale. Elinor Carlson, ricercatrice del MIT, nel commentare la ricerca, dice che la maggior parte dei comportamenti che consideriamo come caratteristiche di specifiche razze canine moderne potrebbe dipendere in realtà da migliaia di anni di evoluzione. Questi tratti ereditabili precedono il nostro concetto di razze canine moderne di migliaia di anni. Insomma, il razzismo canino e anche quello felino, la selezione genetica, sono questioni da mettere in discussione e, a nostro avviso, da abbandonare quanto prima. Un'altra notizia di ambito scientifico riporta al centro dell'attenzione il tema dello spillover, il passaggio degli agenti patogeni dagli animali selvatici agli umani e della pandemia da coronavirus che stiamo faticosamente tentando di mettere alle nostre spalle. Uno studio pubblicato sulla rivista Nature, condotto dagli scienziati della Georgetown University, sostiene che con le temperature medie in continuo aumento, gli animali selvatici saranno costretti a spostarsi e a trasferirsi in regioni dove maggiori sono le possibilità di contatto con gli esseri umani, producendo un incremento notevole del rischio di spillover virale e quindi di nuove epidemie. La nostra preoccupazione, spiega Colin Carson, coordinatore del team di ricerca, è che gli habitat saranno sempre più vicini agli insediamenti umani e così si riprodurranno le condizioni innaturali che abbiamo osservato nei mercati illeciti di animali vivi, la realtà che è con maggiore probabilità all'origine della diffusione di SARS-CoV-2. Gli esperti hanno inoltre scoperto che l'aumento delle temperature potrebbe provocare conseguenze importanti sui pipistrelli, una specie nota per il rischio di trasmissione di malattie e infezioni virali. Gli scienziati, per tentare di mitigare i rischi, consigliano una sorveglianza stretta sulle malattie della fauna selvatica e l'avvio di studi in tempo reale sui cambiamenti ambientali. Ma la contromisura più efficace va da sé altrove, e cioè nel superamento di un modello di sviluppo che è ormai insopportabile e sottopone gli habitat naturali e gli animali selvatici a pressioni eccessive e ormai difficilmente mitigabili. Bird of prey, flying high. La nostra persuasione è che a fronte di mali radicali servono rimedi altrettanto radicali. Dobbiamo, insomma, ripensare l'intero sistema economico e sociale. In the summer sky, flying high, bird of prey. Bird of prey, flying high, flying high. Bird of prey, bird of prey, gently pass on by, flying high, flying high. A proposito di modelli di sviluppo da riconsiderare, torna oggi la nostra rubrica Lessico dell'Antropocene. Questa settimana Francesco Pagnier, giornalista e attivista specializzato in questioni ambientali, affronta un tema sempre più attuale, la desertificazione. Gli esseri umani hanno avuto un impatto senza precedenti sulla Terra, con enormi conseguenze per i cambiamenti climatici, i sistemi alimentari e la biodiversità. È la conclusione del nuovo Global Land Outlook, un rapporto di 200 pagine curato dalla Convenzione ONU contro la desertificazione, che si occupa di degrado del suolo e organizza i suoi vertici in giro per il mondo proprio come le COP sul clima. Il dossier dice che le attività umane hanno già alterato il 70% della superficie terrestre, degradandone fino al 40%. Il sistema alimentare è la prima causa di perdita di biodiversità, desertificazione e deforestazione. L'1% delle aziende agricole controlla il 70% della superficie coltivabile. L'agricoltura occupa il 50% delle terre emerse ed è il grande colpevole di questa situazione sconfortante. Il documento prevede inoltre che se tutto continuerà business as usual fino al 2050, altri 16 milioni di chilometri quadrati di suolo, un'area grande quasi come il Sud America, potrebbero subire un degrado che renderà impossibile produrre alimenti su quei terreni. Al contrario, se la comunità internazionale privilegerà la protezione e il ripristino del territorio, si potrebbero creare 4 milioni di chilometri quadrati di nuove aree naturali entro il 2050, con benefici nel contrasto al cambiamento climatico e nella sfida per arrestare la perdita di biodiversità. Investire in rigenerazione dei terreni contribuirebbe, secondo i calcoli, per un terzo al raggiungimento degli obiettivi climatici che il mondo si è posto con l'accordo di Parigi. Davvero non male. Il punto resta come farlo. Il rapporto fa riferimento a pratiche rigenerative come metodo che possono adottare piccole e grandi aziende per diventare sostenibili e fermare il degrado dei terreni. Ed è qui che la scienza internazionale, come spesso accade dopo grandi denunce, finisce per proporre piccole soluzioni. Gli esperti sono convinti, infatti, di poter raggiungere il disaccoppiamento fra crescita economica e degrado dei suoli, qualcosa che mai si è dato nel passato e mai si darà nel futuro. Lo abbiamo visto, se ricordate, in più di un episodio di questa rubrica. Il mito della crescita verde permea tutte le agenzie internazionali, i governi, le istituzioni economico-finanziarie, senza che ci sia una sola prova della sua validità come approccio. E anche in questo caso, la realtà amara è che non basta applicare una migliore gestione del suolo mantenendo lo stesso modello produttivo e di filiera. Questa terra, concentrata nelle mani di grandissime aziende, va tolta ad alcune di esse, ad alcune pratiche che loro portano avanti, come la produzione di mangimi, l'allevamento, le colture per i biocarburanti, ed è una terra che va utilizzata per altro, comprese importanti aree da lasciare a riposo. Considerare come variabile indipendente la crescita infinita della produttività indebolisce il messaggio forte che pure questi esperti cercano di mandare al pubblico e ai decisori politici. Al coraggio dell'analisi abbiamo sincero bisogno che si accosti per una volta una sintesi conseguente. Ai deserti che avanzano è dedicata la ricetta della settimana del nostro tosco vegan chef, Gabriele Palloni, autore fra gli altri del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton. Una raccolta di ricette che vi consigliamo caldamente, sia perché si tratta di proposte al tempo stesso pratiche e raffinate, sia per l'economicità del volume. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Ricetta a tema deserto. Nessun problema. Con le patate sabbiose si resta in tema e di certo la vostra tavola non resterà deserta. Mamma mia, mi sa che ho proprio bisogno di ferie. Gli ingredienti per 4 persone per le patate sabbiose sono 6 patate medie, ma anche grosse, che tanto le patate non bastano mai, 100 g di pan grattato, un rametto di rosmarino fresco, uno spicchio di aglio, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale e pepe nero. Sbucciate le patate e tagliatele a rondelle dello spessore di circa 1 cm, quindi sistematele in una ciotola con acqua fredda. A parte, tritate il rosmarino e l'aglio. Fate rosolare in padella con l'olio extravergine e aggiungete sale e pepe. E poi il pan grattato e fate tostare per qualche minuto facendo attenzione a non bruciarlo. Scolate le patate e tamponatele con un canovaccio. Unite le patate al mix di pan grattato e mescolate bene. Sistemate le patate in una placca da forno leggermente unta di olio extravergine e fate cuocere in forno caldo a 180 gradi per circa 40 minuti, avendo cura di girare le patate ogni tanto in modo da farle cuocere omogeneamente. Servitele ben calde con del rosmarino fresco tritato. So hang on me, hang on. L'associazione Essere Animali, specializzata fra le altre cose in dirompente indagini coperte in allevamenti e mattatoi, segnala un fatto decisamente inquietante. Nelle vicinanze del porto di Las Palmas, di Gran Canaria, in Spagna, sta per essere costruito il primo allevamento di polpi. Un precedente mondiale e nella storia, come viene definito da Essere Animali, che sta cercando con altre organizzazioni di bloccare sul nascere il progetto. L'associazione usa argomenti sia animalisti sia ecologisti per contrastare questo intento e fa notare che secondo i ricercatori della London School of Economics i polpi sono animali solitari, spesso aggressivi l'uno verso l'altro quando si ritrovano in spazi ristretti. Non c'è nessun metodo di macellazione che sia affidabile e umano e che possa essere eseguito su larga scala a livello commerciale. L'apertura dell'allevamento prevista per quest'estate è stata annunciata lo scorso novembre dalla multinazionale spagnola Nueva Pescanova, che stima una produzione di circa 3.000 tonnellate di polpo all'anno a partire dal 2023. In pratica il 10% dei polpi attualmente pescati ogni anno nei mari spagnoli. In merito alla questione ambientale, l'Aquatic Animal Alliance fa notare come il progetto non specifica come eviterà l'infiltrazione di sostanze potenzialmente pericolose e la concentrazione di elementi chimici che possono danneggiare l'ecosistema. Inoltre, il polpo è carnivoro, il che vuol dire che dipende da mangimi a base di farina e olio di pesce provenienti da stock ittici selvatici, aggravando così la pressione sui mari e sugli oceani, già pesantemente colpiti dalla pesca intensiva. L'Aquatic Animal Alliance, che comprende più di 100 organizzazioni no profit e scienziati di tutto il mondo, si sta mobilitando per chiedere alle autorità governative delle Isole Canarie di non dare il permesso di apertura per questo allevamento. Per sostenere l'iniziativa, sottoscrivendo un appello, si può consultare il sito essereanimali.org. Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Anna Granata, Valentina Baronti, Francesca De Matteis, Gabriele Palloni, Gianluca Masala, Francesco Panier, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.